Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e buon venerdì. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Se volete intervenire, siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24. Di che cosa parleremo oggi? Allora, inizieremo con la notizia che è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che ci riporta ai temi italiani, ai temi della manovra e soprattutto di quello che si sta pensando per provare a ricavare qualche risorsa. C'è questa ipotesi di anticipare di qualche tempo l'asta per le frequenze 5G. Abbiamo avuto appunto l'asta per le frequenze 3G, quella per il 4G, adesso la gara appunto per l'asta per il 5G, che permette ovviamente sempre i messaggi, ovviamente sempre l'accesso a internet tramite cellulare, ma anche i video ultra HD e 3D e il controllo, per così dire, della smart home. È uno standard che dovrebbe iniziare ad entrare a regime nel 2020, ma appunto il governo intende evidentemente anticipare l'asta per poter incassare una cifra che viene valutata a spanne e in questo momento intorno ai 2 miliardi di euro. Questo ovviamente in vista della manovra. Intanto il dibattito sulla manovra si arricchisce di un altro elemento, ed è un elemento, consentitemi, piuttosto importante, perché si è parlato molto, ne abbiamo parlato anche ieri, del tema della decontribuzione per i giovani. Si sta ipotizzando, l'esecutivo sta ipotizzando una decontribuzione della durata di 1-2 anni di poco più di 3.000 euro per i giovani fino a 29 anni. E abbiamo già commentato ieri che, insomma, evidentemente non sembra essere non sembra poter avere una misura di questo genere per le dimensioni che ha, l'impatto che il governo vorrebbe, ossia un impatto di forte crescita per quanto riguarda l'occupazione giovanile che viene confermato oggi dall'Eurostat. Crescono gli under 30 occupati, ma l'Italia resta penultima in Europa con il 29,7% delle persone tra i 15 e i 29 anni al lavoro, con una media europea che è al 48,2%, quindi livelli di occupazione molto bassi per i nostri giovani, e questo lo sappiamo bene. Dicevo che questo dibattito si arricchisce di una voce importante, perché è la voce delle persone che poi li devono assumere, questi giovani, ossia gli industriali. Un intervento del presidente di Confindustria, Francesco Boccia, sul Sole 24 Ore di oggi. Del presidente di Confindustria, ma qua un intervento del presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ma in realtà oggi è arrivata una presa di posizione di Confindustria che dice che servono investimenti massivi per l'assunzione dei giovani, e dice le misure che il governo ha in cantiere possono avere successo. Occorrerà investire risorse sufficienti a garantire la piena decontribuzione fiscale per i primi 3 anni. In sostanza, quello che sostiene Confindustria è che serve una piena decontribuzione, e sono in questo caso possibili addirittura 900.000 assunzioni in 3 anni. È una voce importante, perché come si diceva, quella di Confindustria è la voce che poi di chi va sostanzialmente ad assumere i giovani. Questo per quanto riguarda la manovra, anche se ci soffermeremo soprattutto sull'asta 5G. Per quanto riguarda le altre questioni che affronteremo oggi, è stata sicuramente una settimana importante per quanto riguarda Fiat Chrysler, che oggi ritraccia lievemente rispetto ai massimi di ieri, perde lo 0,4%, rimane sotto sopra i 12 euro a 12,44 euro e torneremo a fare un punto in una giornata nella quale la stessa Fiat Chrysler dice con un comunicato di non avere altro da aggiungere a quanto già dichiarato in risposta a voci di mercato il 21 agosto 2017 in merito alla vicenda di Great Wall. Dall'altra parte dice che riceve talvolta contatti in merito a possibili operazioni strategiche, ma insomma al momento non c'è sostanzialmente nulla in ballo, anche se il mercato farebbe supporre qualcosa di diverso. La Consob, l'abbiamo detto, ha acceso il suo faro sull'azienda proprio perché le quotazioni sono cresciute molto nelle ultime settimane. Considerate che l'11 agosto eravamo sotto i 10 euro e adesso siamo appunto a 12,4 euro per quanto riguarda Fiat Chrysler, quindi è sicuramente la notizia della settimana. Andremo a Jackson Hole, è inevitabile. Jackson Hole, che è questa riunione annuale nella quale si trovano anche i banchieri centrali e dalla quale ha già parlato Janet Yellen poco fa, ha detto delle frasi che riguardano soprattutto la riforma dei mercati finanziari, l'ipotesi di riforma del funzionamento di alcuni elementi di riforma dei mercati finanziari alle quali sta pensando il presidente americano Donald Trump, sostanzialmente bocciandole. Qua ci sono due elementi su cui riflettere: da una parte quale sarà la politica dei tassi, dall'altra parte quale sarà il futuro di Janet Yellen, e le parole di oggi sembrano in qualche misura segnarlo. Il presidente Donald Trump, il mandato di Janet Yellen, lo abbiamo raccontato, scadrà nel febbraio dell'anno prossimo. Trump deve scegliere chi succederà a Yellen, si era fatto il nome della stessa Yellen, ma ci sono anche altri nomi in gioco e vedremo se queste parole di Yellen di oggi, che sono piuttosto dure con le ipotesi appunto di riforma prospettate da Trump, potranno avere un impatto nella scelta del candidato. Infine ci occuperemo di un viaggio di Stato importante. È il viaggio di Stato che sta facendo Emmanuel Macron nei paesi dell'Est. Al centro dell'attenzione di questo viaggio c'è una questione della quale lo stesso Macron si era già occupato quando era ministro dell'economia. È il cosiddetto dumping sociale. Come funziona? Funziona così che ci sono alcuni lavoratori che, soprattutto dai paesi dell'est, vengono per così dire distaccati in Europa, nell'Europa occidentale. I datori di lavoro di questi lavoratori beneficiano del fatto che possono pagarli con i salari del loro paese di origine. E poi però, nella sostanza, queste persone lavorano nel nostro paese. In questo senso si parla di dumping sociale, ossia il fatto che questi siano lavoratori più a basso costo e quindi i datori di lavoro preferiscano assumere loro rispetto ad altri. Macron si mosse già in questa direzione quando era ministro dell'economia, con una legge che in parte era stata contestata, che riguardava soprattutto il settore dell'autotrasporto, che sente molto questo problema. Adesso è andato appunto nei paesi dell'est a riproporre questo tema perché vorrebbe portarlo all'attenzione della Commissione europea il 23 di ottobre. Questi i temi al centro di questa giornata, ovviamente anche i mercati che oggi sono positivi, più 0,25% il FTSE MIB, più 0,24% il FTSE O'Share, Francoforte che cede lo 0,02%, Parigi lo 0,08%, in guadagno l'America con il Dow Jones che guadagna lo 0,20, lo Standard & Poor's 500, altrettanto le notizie in breve di oggi. Oro in calo dello 0,5%, 1280 dollari l'oncia, il petrolio in rialzo dello 0,8% al momento dell'apertura. Adesso abbiamo il Brent in guadagno dello 0,4% a 52 dollari al barile, il WTI dello 0,4 a 47,9. L'intervento di Janet Yellen c'è già stato, lo abbiamo detto, alle 21 sarà la volta di Mario Draghi a Jackson Hole. Yellen dice: le riforme hanno reso la finanza più sicura e qualsiasi cambio alle regole decise dopo la crisi finanziaria dovrebbe essere modesto. difende la riforma di Wall Street, dice: ricordiamoci del 2008, ci ricordiamo i danni che l'ultima ha creato, e l'ultima crisi ha creato, agiamo di conseguenza. Possiamo sperare che il sistema finanziario e l'economia sperimenteranno meno crisi e recupereranno più velocemente, risparmiando le famiglie e le aziende dalle difficoltà del 2008. Dice Janet Yellen: sostanziali progressi verso gli obiettivi della Federal Reserve. E il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, dice che la cosa giusta da fare è normalizzare la politica monetaria. I dati della Germania: il PIL del secondo trimestre è confermato a un più 0,6%, il dato definitivo su base annua è un più 2,1%, e nel primo semestre del 2017 si registra ancora quel surplus di bilancio da record, che al momento ammonta a 18,3 miliardi. Di Fiat Chrysler abbiamo detto, così come abbiamo accennato ai dati di Eurostat sugli occupati under 30, con l'Italia penultima, solo il 29,7% delle persone tra i 15 e i 29 anni è al lavoro, con una media europea al 48,2%. Abbiamo detto di Confindustria, che dice: servono investimenti massivi per l'assunzione dei giovani. Solo in presenza di scelte mirate sarà possibile aprire le porte delle imprese a 900.000 giovani nel triennio. E sottolinea Confindustria che questo è il principale problema del paese. Allora, c'è la notizia che i dipendenti delle province e delle città metropolitane sono pronti a incrociare le braccia. I sindacati del pubblico impiego di CGIL e CISL e UIL hanno proclamato per il 6 ottobre lo sciopero nazionale per l'intera giornata di tutto il personale. È un problema delle province, questo, le province, che andrà affrontato in qualche modo, e a un certo punto, perché qua viviamo in questa strana situazione di mezzo, nella quale la riforma del Rio le aveva sostanzialmente svuotate di competenze, in attesa di cosa? In attesa che venisse approvata la riforma costituzionale che le avrebbe abolite. Non è stata approvata la riforma costituzionale, come ben sapete, e le province sono rimaste prese in mezzo. E ricordiamoci che al momento, per quanto non ci piacciono le province, non vi possono piacere le province, al momento le province gestiscono tutta una rete di strade, di scuole. C'è da segnalare anche una notizia che riguarda Trenord in Lombardia, perché l'azione collettiva promossa dal Comitato Altro Consumo per i disagi del dicembre 2012 per gli utenti di Trenord in Lombardia è stata accolta dalla Corte d'Appello di Milano dopo il rigetto di primo grado. Dovrà risarcire 300.000 euro per i disservizi del 2012, 100 euro ad aderente. Veniamo al primo tema di questa giornata, appunto l'asta in arrivo per le frequenze 5G. Due piccole precisazioni, nemmeno tanto piccole, per quanto riguarda i mercati. Allora, innanzitutto accogliamo il suggerimento perché non lo abbiamo dato, abbiamo un netto rafforzamento dell'euro sul dollaro e quindi accogliamo il suggerimento dell'ascoltatore che ci dice datelo per carità a 1,1873 l'euro sul dollaro. Per quanto riguarda l'oro, evidentemente abbiamo avuto qualche problema con il nostro terminale, lo dico all'ascoltatore che ci ricopre di insulti, perché in effetti l'oro oggi non è in calo ma è in risalita, ce l'abbiamo, lo abbiamo da quello che vediamo adesso. A oltre 1290 dollari l'oncia, scoccia non essere più precisi, ma insomma proveremo a recuperare magari nel corso di trasmissione. Come si diceva, il governo lavora per accelerare il dossier 5G, la quinta generazione di tecnologie su rete mobile. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, ciao Andrea. Eccoci, buonasera. L'obiettivo è pescare due bei miliarducci, mi sembra di aver compreso, no? Cifre il governo non ne ha fatte, però più o meno questo è l'ordine di grandezza di cui si vocifera, insomma di cui si parla, è attorno al quale, l'obiettivo attorno al quale starebbero lavorando il Ministero dell'Economia, il Ministero dello Sviluppo e Palazzo Chigi, insomma appunto l'asta per le frequenze che serviranno per l'avvio del servizio della quinta generazione di telefonia mobile, insomma di tecnologie su rete mobile, che è una tecnologia che sarà, diciamo, anche rivoluzionaria da tanti punti di vista, no? Si parla di una velocità di download di 20 gigabit, piuttosto che, non lo so, tempi di risposta nell'ordine dei millisecondi, quindi immaginate tutto quello che può in qualche modo accadere sul versante del cosiddetto machine to machine, cioè delle macchine che dialogano fra di loro, industria 4.0, la telemedicina, eccetera. Dal 2020 in poi tutto questo diventerà realtà, e cioè sarà commercializzabile e quindi in qualche modo in Italia si sta pensando a mettere a disposizione le frequenze che serviranno agli operatori poi per poter avviare il servizio. Altri paesi l'hanno già fatto, Germania, Francia, in UK ci stanno pensando, in Italia da quanto abbiamo appreso ci si sta lavorando per avviare l'asta nel 2018, sì. E inserire però la previsione nella prossima legge di bilancio. Sì, e inserire la previsione nella legge di bilancio appunto per poter mettere questi ipotetici 2 miliardi all'interno proprio della legge di bilancio, no? Assolutamente sì, e consideriamo che l'asta si terrebbe l'anno prossimo, cioè nel 2018, però è chiaro che la previsione di entrata sono previsioni che rientrano in questa legge di bilancio. Qua c'è un tema, mi sembra di capire Andrea, è il fatto di reperire risorse per interventi pro crescita. Detto ciò, bisogna vedere che cosa ti fa passare l'Europa, perché questa è un'entrata una tantum. Sì, questa è un'entrata una tantum, è vero, è un'entrata che presenta anche, diciamo, varie incognite, perché è chiaro che tu devi considerare quella che è la possibile entrata di un'asta che però, se tutto va bene, verrà svolta nell'autunno del 2018. Bisogna considerare che gli operatori hanno messo mani al portafogli già nell'ultima legge di bilancio, rinnovando per circa 1,8 miliardi. Rinnovando le frequenze che avevano già a disposizione. E dall'altra parte però il governo è convinto che tutto questo possa avere un senso, e di sicuro gli altri paesi le aste le hanno fatte, insomma, quindi poi sulle modalità e sull'impiego delle risorse, quello è tema del Ministero dell'Economia, sul quale appunto stanno lavorando per trovare la quadratura del cerchio. Ci sono anche delle questioni tecniche, senza entrare troppo nel dettaglio naturalmente, Andrea, queste frequenze vanno anche liberate, no? Sì, sono almeno in parte. Sì, sono frequenze che vanno liberate. Considerate che queste le frequenze pioniere, parte delle frequenze pioniere di quelle che saranno utilizzate sono quelle della banda 700, che è la banda al momento occupata dai broadcaster che la libereranno nel 2022, qualcosa si libererà prima, poi ci sono delle frequenze occupate dal Ministero della Difesa. Ecco, bisogna chiaramente trovare un piano per mettere insieme, per confezionare un insieme di frequenze utile, un insieme di frequenze che possa essere appetibile anche ai agli operatori, che sono appunto quelli che poi dovranno partecipare all'asta. Io ti ringrazio, grazie ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore per questo punto, per questo tentativo del governo di reperire le risorse anche tramite l'asta delle frequenze 5G. Noi adesso ci fermiamo, c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Insomma, come avete sentito e come sempre succede in agosto, piano piano si inizia a comporre a colpi anche di indiscrezioni, di voci fatte circolare, di ipotesi, anche di frasi come quelle di ieri del ministro Poletti, la manovra che arriverà in autunno, e questo ne è uno degli elementi. Pausa. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da CrefoZert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Oh, vi vedo belli incattiviti su questa vicenda dell'asta, dell'asta per le frequenze 5G. Qualcuno ci scrive: altra ingegneria contabile per coprire i fallimenti e i costi della pubblica amministrazione. Qualcun altro: quindi gli operatori si devono svenare per rimpinguare le casse dello Stato. Spero che le aste vadano deserte addirittura. Siamo ai mercati, poi tra poco arriveremo anche a Jackson Hole. Anche perché quello che si sta dicendo nel meeting dei banchieri centrali ha un qualche impatto sui mercati, inevitabilmente lo ha. Ceo Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato ai nostri microfoni. Grazie. Borse positive sia all'America che, o meglio, l'America e l'Italia, mentre invece un po' più deboli Parigi, Francoforte e via dicendo. Non una giornata pazzesca comunque. Non indimenticabile, dai. Borsa abbastanza loffia oggi, possiamo usare questo aggettivo. Milano alla fine sta per chiudere con un rialzo dello 0,2%, le altre sono tutte a ridosso se non sotto la parità. Quali sono i principali temi? Sicuramente, come dicevi tu, il simposio di Jackson Hole, da cui tuttavia non sono arrivate grandi indicazioni dal punto di vista della politica monetaria americana. Ha parlato Janet Yellen, numero uno della Fed, Draghi parlerà più tardi. E altri temi della giornata sono un po' le vendite sulla grande distribuzione. Per quanto riguarda Milano, invece, acquisti sui bancari. Devo dire che per quanto riguarda Jackson Hole, invece, il fatto che la Yellen non abbia dato nessuna indicazione sull'eventuale rialzo dei tassi americani ha penalizzato il dollaro, e con l'euro che si è portato a un passo da quota 1,19 appunto sul biglietto verde. Sì, 1,18,72 in questo momento, quindi insomma sì, siamo là a ridosso, il rialzo è stato netto e c'è stato. Ci dicevi, bancari positivi generalmente, BPM più 1,32, Unicredit più 1,31, per quanto riguarda Intesa San Paolo un guadagno dello 0,42%, e questo più 1,38 ai Saipem, che è la migliore del listino, immagino, Ceo, che sia dovuta ai forti ribassi dei giorni scorsi, no? Sì, diciamo che era andata molto male ieri, soprattutto per il caso Seadrill, cioè il fatto che questo gruppo norvegese che fa servizi oil all'incirca come Saipem aveva annunciato una delicata ristrutturazione. Quindi, come spesso avviene in borsa, quando va male un'azienda del settore, poi ne risentono un po' anche le altre, specie quelle un pochino più fragili a livello europeo. Oggi c'è anche il greggio che è risalito, qui sono i timori per quanto riguarda l'uragano Harvey, che possa avere degli effetti negativi sugli impianti di estrazione del Golfo del Messico, e chiaramente un rialzo del greggio, seppur comunque non esagerato, più 0,5% oggi, favorisce Saipem. Su Fiat Chrysler arriveremo tra un attimo, ma insomma forse era anche inevitabile che perdesse qualcosa. Adesso c'è dello 0,72% dopo due settimane a questi livelli, no? Qualche realizzo. Beh, sì. Poi oggi forse è l'unica giornata in cui non sono usciti rumors, indiscrezioni, poi tutti da verificare sulla società, quindi oggi qualche realizzo ci sta che sia arrivato, sia su Fiat, come dicevi tu, che corregge leggermente rispetto ai massimi storici, sia sulla controllante Exor. Negativa anche Brembo, che cede circa l'1%, Buzzi Unicem, che cede l'1,84%, e A2A l'1,13%. Qua ancora la vicenda del Montenegro, no? Sì, oggi era prevista la prima udienza presso l'alta corte di Podgorica per quanto riguarda il dissequestro della quota che A2A detiene in Montenegro nella multi-utility locale che si chiama IPCG. È una quota che vale parecchio, vale 250 milioni di euro. Per adesso non ci sono notizie che arrivano su quello che potrebbe essere l'esito della vicenda, anche se lo scenario più plausibile è che, essendo stata la prima udienza, la Corte, magari anche per sua intesa con le parti, si riaggiorni tra qualche giorno, tra qualche settimana. Grazie, c'è Oconina, Radio Corri, il Sole 24 Grazie Ore. Grazie a voi, buon weekend. Buon weekend a te, buona serata e buon weekend. È vero che oggi è stata l'unica giornata senza rumors, ma sicuramente senza notizie, indiscrezioni su Fiat Chrysler, ma sicuramente questa è stata la settimana di Fiat Chrysler. Oggi è successo solamente che su richiesta della Consob, Fiat Chrysler ha precisato di non avere altro da aggiungere a quanto già dichiarato in risposta a voci di mercato il 21 agosto 2017. Ossia nel giorno nel quale sono uscite le indiscrezioni su un interesse di Great Wall, azienda cinese, prima su Jeep e poi sull'intera Fiat Chrysler. E poi altre indiscrezioni sono circolate, interesse di altri ipotetici partner cinesi, scorporo di Maserati e Alfa Romeo e della parte di componentistica, oltre che di quella dei robot industriali di Comau, componentistica quindi Texid e Magneti Marelli. Poi voci di uno scorporo entro l'anno della sola Magneti Marelli. Fatto sta che, come si diceva prima, eravamo sotto i 10 euro un paio di settimane fa, adesso siamo a 12 euro e mezzo circa per azione, insomma. La do un po' grossolanamente, 12,4 per essere precisi, visto che oggi vedo un po' pignolini anche dagli sms, i messaggi su WhatsApp. Francesco Zirpoli, economista aziendale di gestione dell'innovazione all'Università Ca' Foscari di Venezia, scrive anche per il Sole 24 Ore. Professor Zirpoli, buonasera. Buonasera. Allora, la faccio lanciare in una previsione. Come va a finire? Va a finire, dipende dal punto di vista. Parliamo degli italiani, dell'Italia, della possibilità di avere un'industria dell'auto del futuro o della famiglia Agnelli? Parliamo di Fiat Chrysler e parliamo della famiglia Agnelli. Iniziamo da là, va? Che la famiglia voglia vendere ormai è risaputo. Marchionne ha più volte esplicitato questa intenzione e credo che il suo obiettivo sia di farlo ovviamente al più presto, anche considerando il fatto che nel 2019 è già prevista la sua uscita. Quindi che Fiat Chrysler sia sul mercato è diciamo noto da direi più di un anno, forse un anno e mezzo. Sì. chi e da che parte, per così dire, da che parte dell'oceano possa essere il partner, è questo che non è ancora chiaro, mi sembra di capire. Certo. Qualcuno ipotizzava, professore, ne parlavamo col professor Berta nei giorni scorsi, che questa mossa di avvicinarsi ai cinesi possa in qualche modo convincere l'amministrazione americana a convincere General Motors a fare la partnership con FCA. Le sembra un'ipotesi che ha un qualche senso oppure no? Molto difficile fare questo tipo di valutazioni, anche perché, come lei sa, la possibilità di interdizione o di, diciamo, bloccare un'operazione da parte dei cinesi, da parte del governo americano, è limitatissima, perché ricordiamoci che FCA non è un'azienda americana e che si interviene per bloccare un'operazione del genere solo per motivi di sicurezza nazionale, non mi pare il caso. General Motors ha più volte mostrato disinteresse per FCA, tra l'altro, come è noto, ha appena venduto le sue operations in Europa, vendendo Opel. Ho sinceramente dei dubbi, ma è molto difficile fare delle previsioni in tal senso. Sicuramente l'interesse dei cinesi sta stimolando quantomeno riflessioni difensive da parte di altri produttori, probabilmente più in Europa, penso a Volkswagen, nel caso specifico. Quindi potrebbe essere più un partner europeo eventualmente. La realtà è questa, è che dalla prima risposta che ci ha dato si capisce che forse la semplice intenzione di Marchionne è vendere al miglior offerente, come poi alla fine è giusto che sia per gli azionisti, tutto sommato. Certo. No? Sarebbe abbastanza tragico per l'Italia. Penso soprattutto, guardi, si parla tantissimo dell'occupazione e lei sa bene che dal 2003 ad oggi si è dimezzata l'occupazione in Italia, passando da 45.000 a meno di 22.000, con metà di questi 22.000 spesso in cassa integrazione. Ma quello di cui non si parla spesso è il patrimonio di cultura manageriale e ingegneristica che è in Italia. Parliamo di oltre 3.000 ingegneri tra Torino e Modena, che sono poi quegli stessi ingegneri che hanno sviluppato i prodotti che ha salvato la Chrysler. Di questo non si parla e un po' mi spaventa, perché questo capitale umano e la capacità di gestire progetti estremamente complessi, tecnologie estremamente complesse, che se Fiat in Italia chiude si perde per sempre ed è un capitale che non si recupera. Questa è la cosa, diciamo, capitale umano, mi consenta professore, capitale umano e poi c'è anche un capitale di distretto, penso a Torino e non solamente a Torino in realtà. Assolutamente. I dati dell'osservatorio sulla componentistica auto, che come lei sa è condotto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato a Torino, ANFIA, e da Cafoschi, dal centro di ricerca che io dirigo a Cafoschi, noi abbiamo mostrato che nel tempo i fornitori auto hanno diversificato il portafoglio clienti, ma ancora circa il 50% della fornitura è rivolta al gruppo Fiat FCA, diciamo, ed è evidente che un ridimensionamento ulteriore di FCA in Italia sarebbe un disastro per le, come dire, reazioni a catena che produrrebbe sull'intera filiera, che evidentemente è concentrata nelle zone del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, ma anche al sud, dove, come lei ben sa, Fiat ha due stabilimenti, Murphy e Pomigliano d'Arco, che di fatto producono volumi significativi, ben più della metà della produzione complessiva Fiat. Murphy ha prodotto 365.000 vetture nel 2016 e Pomigliano 207.000, quindi parliamo di oltre 550.000 vetture su 700.000, quindi il rischio è... È fortissimo. La ringrazio, grazie a Francesco Zirpoli, economista aziendale di gestione dell'innovazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. E adesso andiamo a Jackson Hole. Dunque, alle 16 ore italiana c'è stato l'intervento di Janet Yellen. numero uno della Federal Reserve a Jackson Hole, che è un simposio annuale organizzato nella località montana del Wyoming dalla Fed di Kansas City. Alle 21 ci sarà l'intervento del presidente della BCE Mario Draghi. È improbabile che due banchieri centrali forniscano nuove indicazioni sul tapering, ossia il progressivo ritiro delle misure d'emergenza come l'acquisto di titoli, o meglio, non lo ha fatto Janet Yellen lo ha fatto solo marginalmente, ed è improbabile che lo faccia Draghi. Le riforme, dice Yellen, hanno reso la finanza più sicura, ed è di fatto un messaggio indiretto a Donald Trump. Dice: qualsiasi cambio delle regole decise dopo la crisi finanziaria dovrebbe essere modesto, dice Yellen. Con un po' di fatica abbiamo rintracciato Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Marco, eri a colloquio con i banchieri centrali, dove eri? Sì, a colloquio. Nella stanza dei bottoni. Nella stanza dei bottoni, l'hai consigliata sulla politica monetaria. Allora, aspettava il mio consiglio. Assolutamente. Allora Marco, uno dei temi al centro della scena Jackson Hole, al di là della politica monetaria, è il rinnovo del mandato, l'eventuale rinnovo del mandato per Janet Yellen, che scade in febbraio, lo ricordiamo. Ora, le dichiarazioni di Yellen di oggi sul tema della riforma dei mercati finanziari, della riforma di Wall Street, dando sostanzialmente uno stop a Trump, dicendogli: guarda, le cose vanno bene così come sono, queste riforme ci hanno consentito di fatto di uscire dalla crisi e qualsiasi cambiamento dovrebbe essere modesto. Dal nostro punto di vista, poi non so come sia negli Stati Uniti ed è a te che chiedo l'interpretazione, dall'idea di una persona che dice: ok, mi tiro fuori dalla corsa, o no? A prima vista sicuramente Yellen ha sfidato le pressioni alla deregulation che vengono dall'amministrazione Trump e dal presidente Trump stesso, e quindi a prima vista le sue chance per una riconferma alla guida della Fed restano sicuramente più elevate, anzi forse meno. C'è da dire però che questa è la posizione che Yellen aveva già delineato nelle testimonianze congressuali recenti, e quindi non rappresenta in realtà una sorpresa. Trump però potrebbe non bastare questa sfida a risolvere quello che per Trump è un rebus, cioè la successione a Yellen. Trump è parso finora forse voler anche prendere più tempo del solito per decidere, ha limitato finora anche i nomi che ha ufficialmente messo in circolazione per il futuro della Fed, li ha limitati alla stessa Yellen, di cui non ha escluso in passato una riconferma nelle ultime settimane, e ha citato esplicitamente il suo capo consigliere economico Gary Cohn come invece alternativa. Però si è limitato a fare questi due nomi, pur dicendo che ci sono altri nomi in considerazione. Sì. Ecco, il rebus si pone perché se è vero che Yellen è un avversario diretto di Trump sul fronte della deregulation, è anche vero che è diventata di fatto uno suo alleato sul fronte dei bassi tassi di interesse. Trump non ha particolare voglia e desiderio di vedere un rialzi nei tassi, strette monetarie che in qualche modo possano così frenare l'economia americana. Marco, allora ti interrompo solo un attimo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi brevemente se è emerso qualcosa dal punto di vista della politica monetaria. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. E no, lo scrivo, lo dico all'ascoltatore che ci scrive su WhatsApp, non mi emoziono quando parla Mario Draghi. Guarda, l'ascoltatore dice, anche tu come Sebastiano Barisoni ti emozioni quando parla Mario Draghi. No, ma nemmeno Sebastiano si emoziona, ha sempre detto solamente che Draghi ha un eccellente inglese ed è un piacere ascoltarlo, e questo confermo, per quanto valga, non è che sia un madrelingua io. Marco Valsania, dunque, andiamo da uno che l'inglese lo parla molto bene. Allora Marco, sul fronte della politica monetaria è emerso qualcosa oppure no, brevemente? No, ecco, la Yellen si è attenuta alla difesa dell'architettura delle riforme finanziarie, delle riforme del sistema finanziario, non ha offerto ulteriori lumi sulla di breve periodo, soprattutto sulla politica monetaria, lasciando però a questo punto indirettamente intendere che il corso appare sotto la sua direzione, appare comunque segnato da questa gradualità nella normalizzazione della politica monetaria, una gradualità che dipende dall'andamento dei dati. In gioco è vedere se quando la Fed comincerà a ridurre il suo enorme portafoglio titoli, il suo QE, cosa che potrebbe cominciare a settembre-ottobre, e quando potrà avvenire un'ulteriore mini stretta sui tassi. Qualcuno dice a dicembre, qualcuno dice che potrà slittare a seconda dei dati che mostrano una crescita economica, ma anche un'inflazione ancora molto, molto debole, troppo debole per i gusti della Fed. Quindi ecco, su sì, quello diciamo non poco ha parlato, ma forse il suo silenzio è istruttivo. È piuttosto eloquente. Grazie a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. E adesso, prima di chiudere, dedichiamo un po' di spazio al tema del dumping sociale. Che cos'è? Lo abbiamo spiegato prima, è quando un lavoratore, per esempio di un paese dell'est, nei quali il salario è più basso, viene distaccato in un paese dell'Europa occidentale e viene pagato però col salario del suo paese di origine, di fatto facendo concorrenza sleale ai lavoratori italiani. La questione è al centro di un viaggio che sta facendo il presidente francese Emmanuel Macron proprio nei paesi dell'est, un viaggio che è stato fortemente contestato per esempio dagli autotrasportatori della Romania, che hanno proprio fatto una sorta di picchetto contro Macron, perché è un tema che riguarda molti settori, ma riguarda molto anche l'autotrasporto. Obiettivo di Parigi è arrivare ad un accordo per la riforma delle regole europee in questa materia in occasione della riunione dei ministri del lavoro in programma per il 23 ottobre prossimo, ma a quanto pare Macron sta pensando proprio di escludere l'autotrasporto da tutto questo. Facciamo il punto, e proprio sul settore, con il nostro Andrea Ferro, che è anche voce di Autotrasporti, la trasmissione che va in onda tutti i lunedì alle 13.45 su questi temi. Andrea, buonasera. Buonasera Simone, buonasera agli ascoltatori. Allora, vai. Allora, la questione, diciamo così, è al di là dei tecnicismi sui quali viro un po' largo, è sempre la stessa, è semplice. In sostanza, i costi operativi delle imprese dell'Est Europa in particolare, ma non solo dell'Est Europa, tra questi paesi possiamo inserirci anche il Portogallo, che geograficamente non fa parte di quella parte del continente, sono costi operativi necessariamente più bassi rispetto a quelli applicati dai paesi, dai vettori della cosiddetta vecchia Europa. E quindi poi si determina quello che dicevi te, una forma di concorrenza sleale che in poco tempo ha completamente stravolto il mercato e gli equilibri del mercato dell'autotrasporto. Ti porto un dato: nel 1999, quindi prima dell'allargamento dell'Europa con l'ingresso dei paesi dell'est, l'Italia, giusto per partire dall'esempio del nostro paese, era quinta nella quota del trasporto merci su strada, e già nel 2014 eravamo scesi al dodicesimo posto. Dall'altra parte, tra il 2006 e il 2014, in termini di tonnellate trasportate, l'Italia ha perso il 51%, la Bulgaria è salita del 164%, la Polonia del 124%, poi ci sono Lituania, Ungheria e Slovacchia che hanno, diciamo così, ottenuto performance rilevanti. Costi operativi significa salari più bassi. In Italia il salario minimo per un autotrasportatore è di 1600 e qualche spicciolo, in Bulgaria pensate è di 214 euro. Però è chiaro che un autista bulgaro deve pur campare, deve campare la sua famiglia, quindi con, al di là del fatto che il costo della vita sia inferiore, certamente 214 euro non possono costituire una paga sufficiente per vivere. Il problema deriva dalla struttura del salario, dalla struttura del salario che è completamente diversa, nel senso che la struttura del salario dei nostri paesi, diciamo così, della vecchia Europa, ha un'incidenza, la contribuzione notevole, altrove in sostanza una buona parte del salario è costituito da pagamenti, potremmo dire a cottimo, quindi fatte le somme, inevitabilmente le tariffe che vengono praticate dai vettori dei paesi dell'est Europa sono inferiori, chiaramente inferiori. Molto più basse. Ricordiamoci che è un tema che stiamo prendendo gli autotrasportatori come esempio, il settore dell'autotrasporto come esempio, ma in realtà è un tema che riguarda moltissimi settori. Pensiamo solamente alle costruzioni, tanto che lo stesso presidente francese nel corso di questo suo viaggio nella giornata di ieri ha detto: se non verranno corrette le norme europee che consentono alle imprese di paesi con bassi salari di mandare temporaneamente lavoratori in altri stati membri senza offrirgli le stesse condizioni del paese ospitante, si rischia di smantellare l'Europa. Queste le parole di Macron, e devo dire è anche piuttosto centrato, perché un pezzo della rabbia, no, che è montata in questi anni nei confronti dell'Europa è dovuta evidentemente anche a questo. Andrea, in realtà poi Macron ha un precedente su tutto questo, perché sul tema dell'autotrasporto lui da ministro dell'economia intervenne. Sì, di fatto il nome di Macron era già ben noto al mondo dell'autotrasporto prima che iniziasse la sua scalata all'Eliseo. Porta infatti il suo nome una legge che è stata poi presa come esempio anche da altri paesi, che ha tentato, diciamo così, di affrontare il tema della concorrenza sleale, del dumping sociale, del cabotaggio abusivo, che poi magari se abbiamo tempo apriamo anche una parentesi sul cabotaggio che è stradale, che costituisce un elemento estremamente importante nella valutazione di questo quadro. Questa legge fu approvata nella primavera del 2016 e di fatto impone, perché tuttora è in vigore, impone l'applicazione dei salari minimi per gli autisti impegnati nei trasporti di cabotaggio, cioè di servizio di trasporto interno, anche ai vettori esteri. Evidentemente c'era il concreto tentativo di in qualche modo intervenire su questi squilibri. Anche altri paesi hanno adottato provvedimenti di questo genere, ma è scattata la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, perché come poi dicevi ci sono i paesi dell'est che non intendono certo recedere da queste condizioni di favore, perché inevitabilmente questo tipo di possibilità di invadere i mercati degli altri paesi ha portato enormi vantaggi alle imprese che, se andiamo a leggere addirittura le immatricolazioni dei mezzi pesanti da parte dei paesi, dei vettori dell'est, abbiamo dei dati praticamente incredibili. Se vuoi te ne posso dare qualcuno, praticamente brevemente, in Andrea, Polonia, vai. Praticamente in Polonia il mercato dei veicoli esteri, dei veicoli industriali con peso superiore alle 16 tonnellate, tra il 2008 e il 2014 le immatricolazioni sono aumentate del 26%, nello stesso periodo, ripeto, tra il 2008 e il 2015, prendendo sempre l'Italia, sono calate del 53%. Quindi meno, anche questi in Francia, evidentemente meno 23%. Anche questi, Andrea, sono segnali. Grazie dunque ad Andrea Ferro per questo punto molto chiaro su quello che è successo nel mondo dell'autotrasporto, ma come avete sentito riguarda un po' tutto il mondo del lavoro, almeno un pezzo del mondo del lavoro. Grazie a Roberta Frisani in regia, Mauro De Corno in assistenza e redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, una buona serata, un buon fine settimana da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.